ad alta voce. Edizione 20 anni. Valentina Carnelutti legge Il ritratto di Sara Malcolm di Ginevra Bompiani. 10ª puntata. Perché? Per chi? Perché una ragazza di 22 anni, educata al di sopra della propria condizione, con un lavoro e qualche prospettiva, si getta nell'inferno? Per amore? Per ambizione? Si disse allora che un gentiluomo l'avesse spinta al delitto, di cui lei coprì il nome fino all'ultimo. C'è una strana lettera scritta da Sara il 26 febbraio dal carcere, 2 giorni dopo la sua condanna. È indirizzata a un gentiluomo, ma se noi possiamo leggerla, vuol dire che forse a lui non è arrivata. La lettera dice così: Signore, non potete non sapere che la tristezza è il tormento di un'afflizione inesprimibile, un giudizio più pregiudizievole della peggiore vendetta dalla mano di un nemico. È come un verme velenoso che non solo consuma il corpo, ma morde dentro l'anima stessa. È un tarlo che si nutre del midollo e degli organi vitali, un boia perpetuo che tortura l'anima ed esalta il suo spirito. Perciò, Signore, se la coscienza vi ha toccato, deve certamente aver lasciato tristezza nel vostro spirito. E poiché conviene a ciascuno nella sua ultima ora di morire in pace con Dio e tutto il mondo, io perdono volentieri voi e tutto il mondo. Sara Malcolm. Chi è il gentiluomo? Che parte ha avuto nella storia? Perché Sara si rivolge a lui in uno stile così alato, così spirituale, così pieno di metafore e di immagini ispirate a qualche libro di preghiera, a qualche testo religioso? Il pettegolezzo le ha attribuito diverse storie d'amore, con il giovane Alexander, con il reverendo William Piddington, che le sopravvisse di poco più di un anno, con il gentiluomo sconosciuto che visita le sue spoglie in lutto stretto. Il 25 agosto 1733, in occasione della nuova incarcerazione dei due Alexander, viene pubblicato un pamphlet. L'apparizione amichevole, e cioè il resoconto della stupefacente apparizione del fantasma di Sara Malcolm a una grande assemblea di sue conoscenze in una famosa bottega di gin, all'occasione di un recente affronto alla sua memoria in cui si bruciò la sua effigie, insieme al notevole discorso che fece allora a tutta la compagnia. L'occasione è ironica. In aprile è stata ritirata la detestata legge di Walpole sull'Excise Bill, cui Sara era stata paragonata. Quanto all'affronto, non se ne sa più nulla. Il libello è preceduto da un'incisione e da una dedica a Mr. P. Sul testo, conservato nella biblioteca di Harvard, accanto alla P, è scritto a matita Piddington. La dedica schernisce il reverendo Piddington e le sue presunte attenzioni amorose per Sara durante la prigionia, la sua rivalità con un prete cattolico, la sua assistenza ai condannati, e si firma con le iniziali AR. L'autore si vanta di aver pasteggiato per una settimana raccontando la storia di Sara Malcolm, e proprio quando credeva che l'argomento fosse esaurito, era venuto a sapere di una sua apparizione in una distilleria di fronte a un consesso di politicanti. Ben poco interesse ha il discorso attribuito a Sara dal furbo pennivendolo. Più interessante invece è l'incisione che accompagna il libello. L'incisione, attribuita a Hogarth ma non firmata, mostra Sara nella stessa posizione in cui Hogarth la ritratta, ma le sue braccia sono appoggiate a un elegante tavolino sul quale giace abbandonata una lettera scritta a metà e una penna nel calamaio. Dietro a Sara si tiene un ecclesiastico Piddington o un magistrato, l'abito potrebbe appartenere a entrambi. Nello Stevens Catalogue of Satirical Paints, la figura dietro Sara viene descritta come quella di un avvocato o un ecclesiastico. con la parrucca bianca che tiene fra due dita una fede nuziale. Il commento dice: Sara Malcolm, etat 22. No recompense but love. Appena qualcuno ha aggiunto Feb 1733. In un riquadro a sinistra si vede l'impiccagione, la carretta coi due prelati e l'enorme folla nella piazza. Nella collezione di Lord Charlemont c'era un'incisione di Hogarth sul fondo della quale si intravede un patibolo. Charlemont ne chiede conto a Richard Livesey, che l'ha acquistata per lui a un'asta, e questi gli risponde il 18 settembre 1786. Avete espresso il desiderio di sapere come quello schizzo sia finito sulla stampa di Sara Malcolm. Sono dell'opinione che Hogarth l'abbia fatto con l'intenzione di mettercelo, ma che poi abbia abbandonato l'idea. Charlemont dirà poi che l'incisione di cui sopra è resa particolarmente preziosa dal patibolo sullo sfondo, che è stata senza dubbio aggiunta da Hogarth stesso. Questa immagine richiama il secondo ritratto perduto di Hogarth, di cui abbiamo una piccola riproduzione che la mostra a figura intera, seduta a un tavolo nella sua cella a scrivere una lettera mentre guarda intenerita nel vuoto. Ai suoi piedi vi è un anello, conficcato nel pavimento. L'immagine dice che Sara si aspettava di essere sposata e invece verrà impiccata. Ma di che cosa l'amore sarebbe stato la ricompensa? La lettera di Sara fa pensare che qualcuno fosse insieme a lei complice del delitto, o per averlo ispirato, o per averla ingannata, o per averle lasciato sperare qualcosa. Dal modo in cui si rivolge a lui, quest'uomo appare di condizione superiore alla sua. La lettera scritta in carcere non poteva essere per Piddington, che come suo confessore la visitava regolarmente. Era forse diretta a un magistrato, a uno studente, o al padrone che cercava nella folla ancora un istante prima di morire. Il rapporto di Sara con il suo padrone è certo singolare. Lei abita a Shoreditch, sobborgo di Londra, ma usa della casa e del letto di Carol molto familiarmente. Lascia la biancheria pulita nei suoi cassetti, quella sporca sotto il letto, e nasconde la refurtiva addirittura nella seggetta, come se in quelle stanze si sentisse sicura. Carol però non esita a cacciarla quando viene a sapere del delitto e a consegnarla alla polizia quando i suoi sospetti trovano le prime conferme. E tuttavia non si preoccupa di sospettarla fino a tardanotte, quando la sorprende insieme a Geoghegan nelle proprie stanze. Il giorno che la va a trovare in carcere, Sara si butta urlando ai piedi del carceriere perché lo mandi via, ma poi lo cercherà sul luogo dell'esecuzione. Durante il processo cerca di implicarlo, ma lo fa avvertire quando Will Gibbs propone di sopprimerlo. Poi, prima di morire, lo scagiona pubblicamente. La versione di Sara e quella di Carol divergono. Sara sostiene di aver passato la notte in casa di Carol su sua richiesta perché lui era assente. Carol e Geoghegan dicono che Sara si presentò la mattina alle 9. Sara sostiene di essere stata vista da lui mentre contava del denaro e che Carol lo contò dopo di lei nel suo letto. Carol nega. Sara si comporta come se ci fosse fra lei e Carol un'intimità. Carol la respinge. Ma se questa intimità ci fosse e anche una qualche collusione fra loro, Carol non si comporterebbe ugualmente così? Può darsi che Sara abbia stabilito in quei 3 mesi una relazione con Carol tale da indurla a sperare che l'avrebbe sposata e abbia voluto farsi una dote, rendersi più appetibile per uno studente squattrinato. Ma chi è l'uomo che la bacia da morta? Carol o Piddington sarebbero stati riconosciuti? Il 2 marzo 1733 fu Sara a ricevere da Kensington una lettera. È lunga, prolissa e firmata Morgan Mackay. Lo scrivente, forse un prete cattolico, conforta Sara con argomenti convenzionali e beffardi. Si riferisce alla sua dichiarazione di fede cattolica e la esorta ad attenervisi e a non cadere nelle insidie del più ordinario degli ordinari. Si riferisce al reverendo Guthrie, ordinario di Newgate. e nei suoi tentativi di estorcer le false confessioni. Infine conclude: «E dal momento che avete già dichiarato quel che voi dite sia la verità rispetto ai fatti di cui siete incriminata, spero che nessuno prevarrà su di voi per farvi dire altrimenti. Così mi raccomando come il vostro fedele amico, sempre in preghiere per voi fino alla morte». Il tono di questa lettera è di scherno e intimidazione. La invita a non cambiare la sua confessione e a non compromettere lui o qualcuno che a entrambi preme. È un tono così diverso da quello della lettera di Sara, scritta pochi giorni prima, e così in contrasto con la figura in lutto stretto che paga per vederla un'ultima volta, che è difficile pensare che si tratti della stessa persona. È più in carattere col gesto dell'uomo saltato sulla carretta per baciarla e con il rifiuto sdegnoso della ragazza, ma se così fosse, ci sarebbero più uomini implicati nella vicenda. C'è poi quel gentiluomo del tempo cui numerose persone indirizzano la lavandaia che vuole testimoniare a favore di Sara. Chi è? Perché proprio a lui? E chi fra i gentiluomini del tempo raccomandò Sara a Carol? Altrettanto misterioso è quel suo indugiare sui luoghi dopo il delitto e, nonostante le raccomandazioni dei complici, il tenersi il denaro addosso e nascondere gli oggetti in casa del padrone. Infine, quando era già sospettata, perché restare al Temple nella guardiola invece di far perdere le sue tracce? Torniamo un poco indietro a quella notte molto burrascosa in cui viene commesso il crimine. Secondo il racconto di Sara, lei e i suoi compagni si lasciano nei pressi di Fig Tree Court, nel Middle Temple, verso le 5 del mattino. Gahagan la vede entrare nelle stanze di Carol alle 9. La sua casa è così lontana che la notte dopo, alle 2 di notte, rifiuterà di andarci. Per di più, se fosse tornata a casa, si sarebbe cambiata d'abito, avrebbe nascosto l'area furtiva, mentre invece la nasconde in casa del padrone. Ma dove passa quelle ore fra le 5 e le 9? Sara dice di aver dormito in casa di Carol, assente. Ma al risveglio Carol è in casa. All'una, Carol e Gahagan escono per andare a mensa e non tornano a casa fino all'una di notte. Alle 2 del pomeriggio, Sara si aggira davanti alla porta del maestro del tempio. Dopo la scoperta del delitto, Carol non torna a casa, ma va a ubriacarsi col suo amico. Sara ha molte ore a disposizione, potrebbe tornare a casa, nascondere o sotterrare il denaro e gli oggetti. Non lo fa. Resta in casa di Carol. Lo aspetta. Ma Carol non torna da solo. Comunque siano andate le cose, è certo che Sara, pur potendo, non tornò a Shoreditch, ma rimase nel Temple, in casa di Carol o di qualcun altro da cui sperava protezione e che forse, saputo del delitto, si tirò indietro e la lasciò sola. Questo spiegherebbe il suo smarrimento e l'incapacità di fuggire, di salvarsi, di nascondersi. In quelle ore molte cose hanno cambiato aspetto. E poi possiamo interrogarci sulle ultime parole di Sara. Quando i cavalli si muovono, la carretta scorre sotto i suoi piedi e la ragazza chiama disperata: «My master! My master! I wish I could see him!» Era Carol che invocava? Di Carol dopo questa vicenda si perdono le tracce. Sebbene conducesse la vita dello studente, McKinnon non lo trova iscritto nei registri né del Middle né dell'Inner Temple. Tutto ciò resterà misterioso come le parole dette da Sara ad Anne Oliphant nel momento in cui vide i corpi riversi delle tre donne che non sapeva di aver ucciso. Dove siamo finiti? Nelle incisioni, tratte più o meno fedelmente dal ritratto di Hogarth, Sara Malcolm appare un po' diversa che nell'originale. Ha un viso più bello, più nobile, pieno di volontà e determinazione, ma ancora trasognato, come assillato da un pensiero che sembra più un rimpianto che un rimorso. La cosa più sua che abbiamo è la firma in calce alla deposizione resa a Sir Richard Brocas. Scrive il suo nome, Sara Malcolm, con due L, e quelle L sono due tratti forti e carichi di inchiostro. La parte superiore delle lettere è alta e slanciata, la S è elegante. Il nome è scritto con l'iniziale maiuscola, mentre il cognome è tutto minuscolo. Fra nome e cognome c'è differenza nella scrittura, come se ogni aspirazione all'eleganza fosse contenuta nel nome, mentre nel cognome si concentrassero la forza e la volontà di dominio. Alle insistenze dei visitatori perché confessasse i propri delitti, Sara rispondeva che qualche tempo dopo la sua morte la verità sarebbe venuta alla luce. Forse pensava al processo contro Mary Tracy e gli Alexander, quel processo che non ha mai avuto luogo, ma il volgare libello che mostra Sara che torna da fantasma in un gin bar e pronuncia un prolisso discorso politico sostiene che molti si aspettavano di vederla apparire. Quando ho trovato la sua storia, 20 anni dopo il sogno di Londra, ho creduto che volesse servirsi di me per raccontarla, che fosse il mio fantasma. Paola Masino raccontava di aver soggiornato insieme a Bontempelli nel palazzo veneziano dove Giordano Bruno era stato tradito dai suoi ospiti e consegnato all'Inquisizione e di aver trascorso insieme a lui molte notti. Diceva che il filosofo voleva che lei scrivesse la sua storia sotto dettatura e di essersi tenacemente rifiutata. Pensatela come volete, resta il fatto che Paola Masino ha resistito alla tentazione di scrivere la storia di Giordano Bruno nel palazzo Mocenigo. Potrei dire di aver fatto altrettanto. Dopo aver scoperto la storia di Sara Malcolm, ho resistito per anni, non tanto a scriverla, quanto a trovare il modo di raccontarla. Avevo una storia, ma non ero libera di scriverla. Non ero libera di inventarla, mi sentivo inchiodata a un compito. Questa storia è stata la mia pastoia per tutti questi anni. Se ho finito col trovare un po' di libertà nel raccontarla, non è la libertà dell'immaginazione, ma la libertà della sfinitezza. Sara Malcolm è sempre stata sfortunata. Ha invaso il sogno sbagliato. 20 dicembre 2000. Stanotte ho sognato di lei. È la prima volta che sogno proprio di lei. Non di lei com'era, ma della sua storia, quella che sto scrivendo. Andavo a trovare un uomo, grande, grosso, con barba e baffi biondo rossicci, che aveva pubblicato le sue lettere. Io in realtà non lo avevo letto, quel libro. Mi ero precipitata da lui così senza documentarmi. E quando mi ha chiesto, ha letto le sue lettere? Per vergogna ho risposto di sì. Mi aspettavo che me le desse per leggerle. Il problema che mi ponevo era, perché? Perché lo ha fatto? Hai indovinato? Mi chiese l'uomo. Io ho risposto un po' incerta e fra me pensavo, per soldi o per amore? Aspettavo di leggere le sue lettere per saperlo. Le lettere lo sapevo, lo avrebbero rivelato. Naturalmente non le ho lette. Mi sono svegliata. My dearest dear, the time draws near when you and I must part, and no one knows the inner grief of my poor aching heart. Just to see Valentina Carnelutti ha letto Il ritratto di Sara Malcolm di Ginevra Bompiani, a cura di Fabiana Carobolante con Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce, edizione 20 anni, è un programma Rai Radio 3.